cavar casbatteno a porta lontane, e io lontane lacrime voglio sto cuore vola vola mia mare vola una bella barca mia di mare ho saputo se fa sposa Maria Rosa. Perché ingannarne me sti vorrei passar, non gesta cuore crideme a fast in vanità, a che le braccia strignete ride stata spassà, siende sto candelora de me e mentre te sta chiamà vola, vola, mezzo mare, vola, vola, vola.